Alla conferenza per i 200 anni del Teatro Duse incontro casualmente Giorgio Comaschi. Perché sei qua? Non è casuale. Sono qua perché quest'anno torno al Duse, ho un grande piacere perché io appartengo un po' al Duse, nel senso. E vengo perché ho due lavori, uno che viene presentato oggi nella prima parte della stagione, siccome sono 200 anni di Duse, faccio uno spettacolo che si chiama Viva il Duse, l'11 ottobre mi sembra, sulla storia, gli aneddoti, la storia del Duse, quindi un po' col pubblico, un happening aperto, dove intervisto anche della gente in platea, li faccio venire sul palco, insomma un po' una roba strana. E nella seconda parte della stagione invece farò il mio location, virgola, l'inizio della fine, un spettacolo un po' più comico sugli inglesismi, i tic, dei nostri squassi della vita. Esatto, perché non sapete, ma io sono un grandissimo fan e frequentatore di quanto Giorgio Comaschi fa quasi quotidianamente su Facebook. È una battaglia personale che combatte già da anni contro gli inglesismi messi a raglio, possiamo dire. A raglio. Ecco, quando in realtà ci sarebbero assolutamente dei termini più che propri della nostra lingua. Ma certo, l'ho intitolato Location, l'inizio della fine, perché secondo me è stato dal termine location dove siamo precipitati nel baratro e non siamo più venuti su. Dopo è venuto feedback, è venuto call, fammi una call, e da lì non ci siamo più ripresi. Quindi faccio un po' la storia di e poi racconto un po' di aneddoti anche della mia carriera, parlo della Carrà, insomma sarà uno spettacolo comico dove sono da solo con un telefonino in mano, ecco, parlo con una persona che mi parla in inglese. Questo sarà più avanti? Più avanti, sarà la seconda parte della stagione, tipo non so se aprile, marzo, aprile. Invece a novembre ci sarà lo spettacolo sulla storia del Duse, che quindi tu ripercorrerai dai primi anni proprio. Beh, da quando era il che se non erro non si chiamava nemmeno Duse. No, dal Teatro Brunetti, ma prima ancora il Collegio dei Nobili, quindi poco, ma poi soprattutto non rileggo tanto la storia a livello pesante, ma la racconto attraverso gli episodi, la volta che Carmelo Bene fu sbeffeggiato dal pubblico, la volta che Walter Chiari arrivò in ritardo, la volta che Gaber dormiva dietro le quinte, cioè un po' di aneddoti, sarà uno spettacolo credo divertente. Sicuramente lo sarà, personalmente lo raccomando perché io ho visto quest'uomo fare uno spettacolo bellissimo sulla storia di Bologna al Teatro Comunale, dove condensasti 3.000 anni di storia in un'ora e mezza di spettacolo, chiaramente a modo tuo. Sì, è stata una grande esperienza quella. Bologna dagli Etruschi a oggi, al Comunale con l'orchestra, purtroppo, peccato, non l'abbiamo più ripetuto, se non quelle due o tre repliche che facemmo al Comunale. C'è un problema anche di orchestra, perché sono con l'orchestra. Io speravo che loro lo rimettessero in pista, perché è una storia della città, un bignami della storia della città. Vabbè, pazienza, si farà, è lì. Adesso però concentriamoci, ricordiamo l'11 ottobre, Viva il Duse con Giorgio Comaschi. Grazie Giorgio. Grazie a voi, ciao.